Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che anche da un punto di vista economico non è il tema principale, ma l'incontro che andrà avanti, da quello che si è capito ampiamente in serata, e mi riferisco a Bruxelles, quindi al Consiglio Europeo, con al centro il tema dei migranti e l'ipotesi di intesa con la Turchia. È un tema anche economico, perché sapete che dopo i 3 miliardi che inizialmente era il valore dell'accordo come soldi da dare alla Turchia perché gestisse il fenomeno dei flussi migratori dalla Siria in primo luogo, non facendoli arrivare in Grecia e poi lungo la rotta balcanica, dicevo, la Turchia ha alzato la posta, ha raddoppiato la posta, altri 3 miliardi ha chiesto, e da questo punto di vista sappiamo che c'erano parecchi scetticismi anche italiani sul fatto che la Turchia però non stia, tra virgolette, mollando nulla sul fronte dei diritti civili, e quindi di un paese che sta scivolando, ahimè, grazie al premier Erdogan, in una situazione di scarsa democrazia, per come intendiamo noi in Occidente, quindi libertà di stampa ridotta al nulla dopo la chiusura, o meglio attraverso la cancellazione del vecchio consiglio di amministrazione, e poi per decreto il nuovo consiglio di amministrazione dell'unico giornale, diciamo, di opposizione che c'era in Turchia, la repressione anche di molte manifestazioni. Insomma, la Turchia ha atteggiamenti poco democratici, per essere buoni, e soprattutto è stata anche accusata nella vicenda siriana di pensare soprattutto ai curdi più che all'ISIS, e anche su questo mi sembra che i dubbi siano molto pochi. Ha giocato un ruolo molto ambiguo la Turchia nei primi anni. Detto questo, c'è bisogno della Turchia secondo l'Unione Europea. La Merkel oggi dice di essere cautamente ottimista che si possa trovare una posizione comune. Cameron ha detto che non darà mai i visti liberi ai turchi. Una delle richieste della Turchia è anche di eliminare il visto per i turchi che volessero entrare nell'Unione Europea dai vari paesi. Il Presidente del Parlamento Europeo Schulz è ottimista su una soluzione che, anche se c'è il rischio del veto cipriota, Renzi ha detto ok, ma sarà un precedente, sia chiaro che se ci sarà un accordo con la Turchia farà da precedente, le regole che saranno valide per la Turchia dovranno essere valide anche per gli altri paesi da cui ci attendiamo flussi. Cosa vuol dire? Insomma, è chiaro, l'Italia è molto preoccupata di questo doppio trattamento che c'è, tra il tema profughi siriani, iracheni e anche afghani, perché ha colpito la rotta balcanica, quindi Austria, poi Slovenia, Ungheria e Germania sullo sfondo, mentre per anni nessuno si è preoccupato di quello che capitava sulla rotta, diciamo, mediterranea africana, e quindi Lampedusa, Sicilia e gli sbarchi. E Renzi, il significato di queste parole, se capiamo bene, è che perfetto, se si fanno degli accordi di questo tipo con la Turchia, allora si faranno anche con altri paesi da cui arrivano flussi di migrazione, e chiaramente il riferimento è all'Africa, altrimenti qui, insomma, il problema dei migranti è solo quando riguarda alcuni paesi, Austria e Germania in primis. Di questo parleremo in apertura, parleremo anche chiaramente di vicende più classicamente di finanza, per esempio quello che sta capitando oggi in borsa, il titolo è stato sospeso al Banco Popolare e anche alla Banca Popolare di Milano. Il titolo adesso perde, sospeso, poi l'hanno riammesso, perde il 14,60%, la Milano perde il 6,26%. Non bisogna essere un genio, e quindi ci arrivo anch'io, per capire che il mercato inizia ad avere dei forti dubbi, c'è chi addirittura scommette che l'operazione di fusione, l'unica veramente avviata tra Popolare di Milano e Banco Popolare, alla luce della trasformazione che tutte le popolari dovranno fare quest'anno in SPA, e sappiamo, più volte abbiamo parlato del rischio delle popolari, dicevo, questa operazione rischia di saltare perché è arrivata anche la lettera della Banca Centrale Europea con le sue condizioni per approvare il piano di integrazione. E sappiamo che la banca centrale ha una, diciamo, una linea molto dura sui non performing loans, quindi i crediti non esigibili, che sono ancora in pancia, quelle che noi chiamiamo sofferenze, che sono in pancia queste due banche. Brutta la reazione in borsa, va male anche la Popolare Emilia Romagna, meno 7%, e complessivamente tutto il settore bancario non se la passa bene. Mediobanca meno 6,1%, Monte dei Paschi meno 5, Ubibanca meno 4,60, Unicredit meno 3,90, come Intesa San Paolo. Bene invece il settore energia, Snam più 2,70%, Eni più 1,60% e Tenaris, che viene sempre affiancata per la sua attività al mondo del petrolio, più 1,40%, come Prysmian. Ferragamo guadagna l'1,20%. Il petrolio, visto che ne parliamo, oggi è di nuovo in crescita, questo giustifica anche l'aumento dei titoli legati al petrolio, e sfiora i $40 al barile. Anche qui siamo sui livelli più alti degli ultimi mesi, come conseguenza di questo accordo per bloccare, congelare la produzione che hanno raggiunto i paesi OPEC e non OPEC. Gli indici infine, meno 0,90% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 1,20% Francoforte, Londra invariata, il Dow Jones guadagna lo 0,50%. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, Lula, ne parleremo di Lula. Sì, obiettivamente adesso noi abbiamo elogiato Lula a suo tempo perché, diciamo, il miracolo dell'economia brasiliana si associò alla presidenza, al doppio mandato presidenziale di Lula. Però, a parte il fatto che adesso il Brasile invece sta conoscendo una profonda recessione, la conoscerà anche quest'anno, obiettivamente è difficile giustificare quello che sta avvenendo. Sapete che i giudici della cosiddetta Mani Pulite brasiliana indagano e hanno indagato Lula per la vicenda dei tangenti pagate al suo partito dal colosso petrolifero brasiliano Petrobras. Allora, è il magistrato che è titolare dell'inchiesta, ha reso pubblica un'intercettazione telefonica in cui Dilma Rousseff, l'attuale presidente, dice a Lula che sta per mandargli la nomina a ministro. È venuto fuori un caos oggi, con scontri anche con la polizia. Perché? Perché Lula ha giurato come ministro per la casa, se ho ben visto. Però questo perché gli tafferugli? Perché questo ministro della casa civile, questo lo avrebbe messo al riparo dall'inchiesta dei giudici. Voi capite che, insomma, Lula è fuori dai giochi, viene nominato ad hoc ministro per la casa civile per non essere indagato. E il giudice federale brasiliano invece ha emesso una sentenza provvisoria che sospende poi la nomina dell'ex presidente al ministro della casa civile. Il governo potrà fare ricorso, ma insomma è una situazione caotica, un braccio di ferro totale in un paese già piegato appunto dalla recessione economica. Parleremo anche delle banche centrali, perché oltre alla Banca Centrale Europea oggi ci sono mosse, quella della Norvegia che ha abbassato il tasso di interesse principale, la Svizzera li ha lasciati invariati a meno 0,75 però, e ha tagliato anche le stime sull'inflazione. Pure la Svizzera risente della deflazione, dal meno 0,5% a meno 0,8% quest'anno, e per il 2017 si andrà a un più 0,1%, quindi assenza di inflazione. La Gran Bretagna invece i tassi di interesse li ha lasciati fermi allo 0,5%. Infine, sempre per le notizie di carattere europeo, oggi Eurostat ha confermato che l'area euro è in deflazione, è tornata in deflazione, meno 0,2% nel mese di febbraio. Due notizie ancora. Mi riferisco, da un lato, notizie di carattere italiano. al presidente dell'INPS Tito Boeri, che ha annunciato che finalmente le buste arancioni arriveranno a casa degli italiani. Sono 7 milioni di buste che verranno inviate a 7 milioni di italiani, di lavoratori, nel 2016, che permetterà di raggiungere chi non è digitalizzato. Insomma, che cosa permette questa busta? Di capire quando e come andrà in pensione, quando e come, nel senso con che tipo di assegno pensionistico, per tutti quegli italiani che non riescono a capire questa cosa usando il computer, però dice Boeri in maniera molto esplicita, per raggiungere chi non è digitalizzato. E però verranno invitati a munirsi dello SPID. Cos'è lo SPID? Non è una droga, è il PIN unico per accedere ai servizi online dell'INPS, in cui tu entri con questo PIN e calcoli, devo dire abbastanza semplice, l'ha fatto anche chi vi parla, calcoli quello che è quando sei nato, quando inizi a lavorare, quando inizi a pagare i contributi e quando andrai in pensione e con che tipo di pensione. Una buona notizia per gli ascoltatori che da tempo, devo dire, ci scrivono contro l'anatocismo bancario, cioè il pagamento degli interessi sugli interessi, che è una cosa scorretta di cui però le banche si avvalgono. Allora, da questo punto di vista, via libera della Commissione Finanza della Camera allo stop definitivo all'anatocismo bancario, cioè appunto al pagamento degli interessi sugli interessi, anche sui finanziamenti che valgono sulle carte di credito, le cosiddette revolving. L'emendamento che dell'onorevole Boccaduri, riformulato nell'ultima lettura, stabilisce che la maturazione degli interessi non potrà essere inferiore ad un anno e che gli interessi debitori a carico del cliente non possono produrre interessi ulteriori e che siano conteggiati al 31 dicembre ed esigibili da marzo dell'anno successivo. Speriamo che adesso diventi legge, visto che appunto la Commissione Finanze della Camera ha dato via libera al blocco, diciamo lo stop dell'anatocismo anche sulle cosiddette carte revolving. Vedo molti messaggi sul fronte Banco Popolare di Milano. Allora, nella lettera di Francoforte, poi ne parleremo più diffusamente, ci sarebbero degli ultimatum alle due banche con delle condizioni per concedere il via libera alla fusione. Su questo però ascoltiamo i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Un'altra giornata di passione per i mercati finanziari internazionali e soprattutto per quello italiano, appesantito ancora una volta dal settore bancario. Ma che cosa c'è che non va nelle banche, visto che proprio pochi giorni fa è stata la stessa associazione del credito italiano a dire che le famose sofferenze, i non performing loans che gravano sui bilanci delle banche, stanno scendendo, come ha detto pochi giorni fa proprio l'Associazione Bancaria Italiana. Quello che non va è la difficoltà sulle concentrazioni, il famoso processo di riassetto del credito italiano, le fusioni bancarie, che tanto sono state auspicate sia dalla BCE che dalla Banca d'Italia, ma che sembrano sempre più difficili da portare avanti. Quella di oggi è un po' una giornata esempio. La famosa fusione fra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano, un'operazione che dovrebbe rafforzare il credito in tutta l'area del centro-nord, anche quella sembra essere stata bloccata dalla BCE. Ma proprio la stessa BCE che pochi giorni fa aveva detto siamo pronti ad agevolare le stesse fusioni. In realtà la difficoltà che c'è ancora in Italia è quella sia sulla governance, cioè i poteri che vengono distribuiti all'interno dei consigli di amministrazione e di rappresentanza degli azionisti, ma soprattutto quella della capitalizzazione. Per la BCE le banche italiane sono evidentemente ancora sottocapitalizzate per potersi concentrare. Il paradosso di questa vicenda è forse proprio qua, mentre tutto il settore, l'industria italiana, i risparmiatori puntano e chiedono di avere banche più forti, dall'altra parte chi dovrebbe agevolare questo processo continua ad ostacolarlo. Bisogna fare molta attenzione in questo momento, perché basterebbe una scivolata nuovamente economica o di crisi finanziaria per portare sull'Italia venti molto pericolosi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo dal primo tema, Bruxelles, Consiglio europeo, il problema dei migranti, l'ipotesi di intesa con la Turchia, molto ottimisti tutti, il Presidente del Consiglio europeo Tusk, oddio, più cauto che ottimista, fiducioso Juncker, fiducioso anche Schulz, e vedremo se questa fiducia è ben riposta. Faccio notare che oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore un articolo, o meglio un commento, un'analisi dal titolo "La strada in salita di un'inchiesta di un'intesa Unione Europea-Turchia", firma di una giovane stagista che è in collegamento con noi da Bruxelles, Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera. No dai, scherziamo, sta diventando la mitica, ogni tanto diciamo anche certo, la corrispondente editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Allora Adriana, tu la vedi in salita, adesso ci spieghi anche perché, poi vorrei anche un commento su Renzi, perché Renzi ha detto una cosa a mio avviso politicamente rilevante, diceva bene, sappiamo che l'Italia è stata molto scettica su questo accordo, però ha detto se si dovesse fare questo accordo farà da precedente e quindi le regole che saranno valide per la Turchia dovranno essere valide anche per gli altri paesi da cui ci attendiamo flussi. Prima però spiegaci perché è una strada tutta in salita, Adriana. Ma perché diciamo in un primo tempo l'Europa aveva fatto certe offerte alla Turchia per poter avere la possibilità di respingere tutti gli immigrati illegali che sbarcano in Grecia in Turchia e poi riammetterli in Europa in una cifra da stabilire. Che cosa è successo? Che la Turchia al vertice di 10 giorni fa si è presentata con una controfferta in cui in sostanza ha raddoppiato la richiesta, ha raddoppiato il prezzo, diciamo. 3 più 3, 6 miliardi invece che 3. Esatto, 6 miliardi, ma soprattutto poi i visti anticipati dalla fine dell'anno a giugno e poi l'accelerazione dei negoziati di adesione. L'Europa il 7 si è lasciata, diciamo, senza un accordo con l'idea di approfondire questa diciamo pretesa turca. Dopo averla approfondita, oggi si presenterà la Turchia con un netto ridimensionamento delle richieste turche, nel senso che dice il raddoppio si vedrà, per ora rimaniamo fino al 2018 con i 3 miliardi. Secondo, sui visti va benissimo se li volete fare entro giugno, però dovete rispettare i 72 criteri previsti e di questi 72 solo 19 per ora la Turchia ha rispettato. Quindi da qui a giugno, cioè in 3 mesi, dovrebbe fare quello che non ha fatto in anni. Sulla questione dell'accelerazione dei negoziati poi c'è il problema di Cipro. Cipro dice va benissimo purché io toglierei il veto, purché la Turchia rispetti i protocolli, gli accordi sulla riunificazione dell'isola, cosa che finora la Turchia non ha dato segno di voler fare. In più, oltre a questo, gli europei hanno calcolato che usando le quote che avevano già, diciamo, stabilito per la ridistribuzione dei famosi 160.000 rifugiati che erano da redistribuire da Italia e Grecia, di quei 160.000 avanzerebbe una quota disponibile di 72.000 posti. E allora dice l'Europa alla Turchia, va bene l'accordo, sempre questo accordo rivisto e ridimensionato, ma voi dovrete garantirmi che gli arrivi dei siriani, quelli che saranno riammessi, non dovranno superare i 72.000. Ora, dall'inizio dell'anno sono già arrivati in Europa 152.000 e passa rifugiati, non tutti siriani, quindi diciamo che questo tetto appare sostanzialmente irrealistico. Queste sono le ragioni per cui, diciamo, l'accordo è molto difficile. Naturalmente la Spagna e soprattutto la Francia pongono una sorta di sbarramento sulla questione dei visti, se non appunto saranno anche la Gran Bretagna, perché Cameron ha detto, che non daremo visti liberi ai turchi, quindi esatto, però al tempo stesso ha detto noi siamo fuori Schengen, quindi noi facciamo un po' quel che ci pare. Per cui insomma, diciamo, bisogna vedere primo quale sarà la reazione turca, se la Turchia dirà abbozzerà, diciamo. Secondo, diciamo, se l'impostazione resterà questa più restrittiva, probabilmente l'Europa può fare l'accordo, probabilmente, dico, se si risolve la questione Cipro, però. E però bisogna appunto vedere la Turchia. Ora è chiaro che in questo momento l'Europa ha bisogno della Turchia, ma anche la Turchia ha bisogno dell'Europa, perché in questo momento è in una grande difficoltà, è isolata, preda di attentati, e con Putin che le ha dato una bello schiaffo, perché è riuscito a bloccare, certo, il tentativo turco di combattere una guerra sostanzialmente contro i curdi più che contro l'ISIS, ha rinforzato i curdi. Adesso, e continua Mosca a mantenere la sua presenza, a parte il ritiro delle truppe, dei fanti di marina, gli aerei e i bombardieri sono ancora operativi, quindi Erdogan in estrema difficoltà. Ti volevo chiedere appunto questo, però, perché la volta scorsa tutti noi abbiamo avuto l'impressione di una Turchia che giocasse un po' a poker, nel senso che si presenta, chiede non 3 miliardi ma 6 miliardi, vuole l'anticipazione del visto, vuole un'accelerazione sulle trattative, insomma, lasciando un po' spiazzata l'Europa, e molti hanno detto: attenzione, non è che possiamo arrivare con le braghe, calarci le braghe, perché abbiamo bisogno della Turchia. Tra l'altro, toccando anche il tema dei diritti civili, che in Turchia, diciamo, sono così, sono ignorati a essere buoni. Il tema dei diritti civili, per esempio, Adriana, entra nelle famose ottemperanze per avere i visti liberi oppure no? Ma distriscio. Ci sono proprio delle condizioni tecniche, sì. La questione è quella dei diritti umani, delle libertà fondamentali, entra nei negoziati di adesione, quello per forza, perché dovrebbero essere dei criteri base. Ecco, dovrebbero però, perché su questo anche. Allora, dopo il meteo, invece, vorrei unire da un lato quello che ha detto il Premier Renzi, dice, sì, se voteremo sì, questo farà un precedente, e il riferimento, a mio avviso, ai paesi e ai flussi africani, che riguardano l'Italia direttamente, più che i flussi, diciamo, dalla Siria alla Turchia, verso la Grecia, dalla rotta balcanica, e anche come si tiene assieme il resto, perché sto leggendo le agenzie, e quindi adesso il presidente francese François Hollande, che dice: quello che voglio è un accordo globale, l'ho detto pochi istanti fa, con la Turchia ma anche con la Grecia, e servono un insieme di garanzie con la Turchia in materia di diritto. Con la Grecia, se non viene aiutata, non può far fronte alla situazione. Inoltre occorre dire chiaramente agli europei che stiamo dando una risposta comune. E sulla questione della liberalizzazione dei visti, Hollande ha ribadito che Ankara dovrà rispettare tutti i criteri previsti. E poi ha aggiunto Hollande che ha avuto in mattinata un incontro con Angela Merkel e Alexis Tsipras. Il Portogallo, anche qui, non illudersi sul significato dell'accordo, speriamo in una... il premier portoghese Antonio Costa ha detto: non dobbiamo farci illusioni sul significato di questo accordo, perché non bisogna pensare che darà più di quello che può realmente offrire, quindi molto cauto. Ecco, queste posizioni come... si integrano con quello che hai appena detto dopo il meteo, però 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti, mentre aumentano gli iscritti al fan club. Adriana, lo sai che hai un fan club? No, non lo sapevi forse. No. La chiarezza della nostra beneamata mitica è semplicemente mitica. Va bene, adesso però andiamo anche sulle notizie. Allora, dicevo, le dichiarazioni di Renzi oggi è metà giornata, e poco fa, pochi minuti fa, Hollande e Costa, quindi il premier francese e portoghese. In che direzione vanno? Perché Hollande sembra dire: attenzione, va bene questa Turchia, però anche la Grecia, ho visto Tsipras, bisogna aiutare la Grecia, non solo la Turchia. Renzi dice: sì, attenzione, se fate questo accordo con la Turchia, però poi quando avremo i problemi noi con i flussi migratori, Lampedusa e Sicilia, vogliamo lo stesso trattamento. Ho capito bene? Assolutamente sì. Dunque, per quello che riguarda Hollande, non è solo Hollande, ma anche la Merkel, che dice che la chiusura delle frontiere ha beneficiato alcuni paesi, quelli del nord, ha riconosciuto la stessa Germania, ma il problema è che sta immolando la Grecia in una situazione assolutamente insostenibile, senza contare i rifugiati, no? I rischi anche certo. per la salute di tutto questo. Quindi il vertice sicuramente darà un segnale di aiuto alla Grecia, si parla di 250-300 milioni subito proprio per affrontare l'emergenza, anche perché non ci dimentichiamo che l'accordo resta urgente perché più si avvicina la primavera e più ripartiranno. È più facile che i rifugiati, diciamo, trovandosi comunque certe vie chiuse, ne scoprano delle altre. E quindi comunque la Grecia rischia sempre di essere nell'occhio del ciclone. Senza contare che potremmo esserci pure noi. Qualora sì, però la Grecia è comunque la porta d'ingresso. La Grecia è perché anche se fanno la rotta adriatica, devi comunque passare dalla Grecia prima. Devi passare dalla Grecia per andare in Albania, certo. Certo. L'altra questione di Renzi è una questione assolutamente opportuna, nel senso di dire benissimo, noi ci stiamo sbracciando per fermare i flussi verso nord, ma non ci dimentichiamo che potrebbero cominciare i flussi di nuovo dal Mediterraneo, in particolare dalla Libia, che è un po' quello che si teme, e quindi Renzi dice ricordiamoci che a quel punto dovete aiutare anche noi. Anche perché l'Italia può essere esposta appunto a dei flussi dalla Libia qualora ricominciassero dal sud, ma a prescindere dalla Libia, cioè ci sono proprio le previsioni dell'Istituto Internazionale per l'Immigrazione, dicono che ci sono circa 60 milioni di africani immigrati potenziali economici che rischiano di riversarsi in Europa, anche perché l'Africa sta molto aumentando la propria popolazione e quindi non è in grado, diciamo, col proprio livello di sviluppo di sfamare questa gente. Quindi al di là, diciamo, dei rifugiati siriani, che poi si può sperare che prima o poi con una pace in Siria possano tornare nel loro paese, possano tornare o comunque Questa è la differenza più questi problemi, ecco, questa è la differenza più forte tra rifugiato politico. La disperazione è uguale per tutti, purtroppo, è una livella, ma la differenza c'è: il rifugiato politico, perché c'è una guerra in corso in quel paese, il classico caso del rifugiato siriano, tu puoi immaginare che in molti casi poi torni dal luogo in cui è venuto, dove ha lasciato ciò che resta della sua casa e della comunità a cui apparteneva. Il rifugiato economico, come si chiama in gergo, è quello che invece si sposta per un motivo di lavoro, cioè lui non ha nessuna intenzione di tornare se non dopo decenni a casa sua, viene per lavorare, per trovare migliori condizioni economiche. Ecco perché distinguiamo tra queste due cose. Grazie alla mitica Adriana Ceretelli. Sì, vedo molti messaggi che dicono: ma perché i vari paesi, Qatar, Arabia Saudita, che hanno finanziato, lo sappiamo, non dico l'ISIS in maniera diretta, però sono molto vicini a fondamentalismi islamici, un ruolo anche lì molto ambiguo nei confronti di quello che è successo e sta succedendo in Siria, non accolgono immigrati? Beh, guardate che non è che noi, al di là di tutto, non li stiamo accogliendo questi immigrati, ce li siamo beccati, nel senso non è un piano di accoglienza su base globale, siamo l'area geograficamente più vicina e ci sono arrivati in casa, per dirla tutta, per cui hai voglia a dire all'Arabia Saudita accoglie gli immigrati e come li porti, dove li vai? Cioè, questi sono già arrivati in Turchia o già arrivati in Grecia, per non parlare di quelli che sono già entrati in Europa, non è un problema di scelta, per cui è comunque, la vedo un po', se poi la battuta voleva essere provocatoria, sono d'accordo, perché insomma tutti questi paesi arabi che stanno molto bene economicamente e che hanno anche interessi politici molto forti in un'ottica anti-sciita, a costo anche di rischiare di appoggiare l'estremismo islamico, diciamolo una volta tutta, no? Non è che per i soldi, per gli accordi internazionali bisogna sempre star zitti su Qatar e sui Emirati Arabi e quant'altro. Ecco, detto questo, ci spostiamo a un tema completamente diverso. Il volo, mi rendo conto che sia un po' pindarico, però tant'è, perché dalla Turchia e le trattative europee, se vogliamo, un collegamento potrebbe essere fornito dal prezzo del petrolio, visto che parlavamo dei paesi anche produttori, che ha toccato il nuovo massimo da dicembre di questo, quindi siamo praticamente ha superato i 40 dollari al barile. E di questo parleremo tra un attimo, perché riguarda anche l'andamento di alcuni titoli in borsa, però è innegabile che oggi la notizia di borsa è non bella. L'abbiano fatto le due banche, le uniche due banche che erano pronte a sposarsi. Banco Popolare meno 14,20%, sospeso anche per eccesso di ribasso, e Pop Milano meno 5,50%. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Oh, qui è arrivata una lettera della Banca Centrale Europea. Siccome il contenuto non lo conosciamo, ma lo possiamo ipotizzare, cerchiamo di capire perché questa lettera di Draghi. Allora, da un lato si dice che le banche italiane devono consolidarsi, ossia devono fondersi, diventare un po' più grosse. Lo si dice anche perché le banche popolari quest'anno sono obbligate tutte, quelle che hanno più di 8 miliardi di asset, a diventare SPA, cioè a perdere la caratteristica della banca popolare, voto capitario, una testa, un voto, al di là delle azioni, limita il possesso delle azioni, diventano banche normali, contendibili come le altre. Quindi a questo punto l'operazione è bene, uniamoci, fondiamoci. Il famoso, non valzer, ma insomma... il risico delle popolari, i matrimoni delle popolari, quello che volete. C'è un primo matrimonio tentato che sembra ricevere l'ostacolo principale della BCE. Qual è il problema della Banca Centrale Europea? Noi avevamo capito che fossero i non performing loans, quindi le sofferenze in pancia a queste due banche. Diciamo che la BCE ha di nuovo, per l'ennesima volta, perché ormai ci stiamo portando dietro questa vicenda da alcune settimane, ha ribadito una serie di richieste su cui sembra essere totalmente intransigente, anche a costo probabilmente di far fallire quella che poteva sembrare l'operazione che poteva anche avviare quello che chiamiamo un risico, insomma, nel sistema bancario italiano, e che si rende necessaria a luce della forte frammentazione del comparto. La lettera che è arrivata ieri sera all'attenzione dei due CEO, dei due amministratori delegati delle due banche coinvolte in questa aggregazione, sostanzialmente ribadisce quello che più o meno ha ribadito nelle ultime settimane, cioè che da una parte devono essere smaltiti le sofferenze, bisogna raggiungere, diciamo così, una serie di ratio patrimoniali, di livelli di alleggerimento di questi crediti deteriorati. Dall'altra parte richiede uno snellimento della governance, in particolare la governance relativa a Banca Popolare di Milano. Sono due condizioni che difficilmente possono essere, a meno di colpi di scena clamorosi, difficilmente possono essere superate. Quindi salta l'operazione? Diciamo che in questo momento, allora, è congelata. Il momento è particolarmente, sono momenti concitati, perché l'amministratore delegato di Banca Popolare di Milano era a Londra quest'oggi, sta arrivando al volo, letteralmente al volo, qua a Milano, e stasera incontrerà i suoi advisor. Nello stesso tempo anche a Verona, cioè nella sede del Banco Popolare, si sta ragionando sul da farsi. Sabato ci sarà l'assemblea di approvazione del bilancio. Le due banche devono ragionare e capire cosa fare. Non si può escludere ovviamente che possano esserci magari evoluzioni ulteriori, quindi in questo momento c'è grandissimo scetticismo però sul fatto che l'operazione possa andare, diciamo così, a buon fine, anche perché... Però diciamola tutta, se l'operazione dovesse saltare, questa, la responsabilità non sarebbe, diciamo, dei due, della sposa, dello sposo, o dello sposo, dello sposo, come volete voi, ma sarebbe dell'officiante, cioè è il prete che non li vuole sposare, se mi passate, o voglio dire il sindaco non li vuole sposare, perché è la BCE in questo momento che si sta mettendo in mezzo. Faccio notare che noi abbiamo sempre sempre elogiato Mario Draghi per quello che ha fatto come banchiere centrale, lo riteniamo un eroe in questa Europa fatta di nani, un gigante, però questa volta io non so poi quanto sia Draghi, quanto sia la struttura, la tecnica della BCE, perché sapete, Draghi si occupa di cose un po' più alte, esatto. Tassi di interesse, quantitative easing, lì poi ci sono tutti i funzionari della Banca Centrale Europea, Draghi, che ha sede a Francoforte. Sarà un caso. E secondo me qua c'è da distinguere il tema, cioè da una parte ci ritroviamo con le due anime della Banca Centrale, perché il dossier in questo momento è in mano alla vigilanza della Banca Centrale Europea, che ricordiamolo è guidata da una francese, Danielle Nouy, e al cui interno, all'interno del board, c'è una tedesca che è Sabine Leutenschlager, che è l'anima tedesca di questo corpo del braccio armato, diciamo, della Banca Centrale Europea, certo. E dall'altra parte appunto questa vigilanza, che ha come scopo fondamentale quello di controllare e di monitorare la solidità delle banche europee, bene, non accetta sostanzialmente che nessuno sgarri, anche a costo, ed è questo un tema fondamentale, anche a costo che probabilmente possa saltare l'operazione che avrebbe avviato, potrebbe avviare un consolidamento. Sì, in questo senso, come diceva Platerotti nel commento, c'è una contraddizione. Cioè, da un lato la BCE, Draghi dice, attenzione, banche che io sto vigilando, quindi le prime banche, le più importanti banche dell'Unione, dell'area euro, dovete consolidarvi, attenzione, dovete fare situare le sofferenze e consolidarvi. Poi però c'è, qualcuno mi scrive, no, è la suocera che fa saltare il matrimonio, la Merkel. No, guardate che la suocera in questo caso è la francesina. Perché concorrenza con l'anima tedesca, cioè l'asse franco-tedesco in questo momento ha sicuramente un peso, è inevitabile. E quindi o sono le due suocere, quella tedesca e quella francese, mettiamola così, però il punto è questo, che c'è una contraddizione in termini. Tu non puoi dire andate avanti con i consolidamenti e quindi fondetevi perché così siete più grosse, dovete anche migliorare gli stati patrimoniali così, e poi bloccare tutto sulla governance sulle sofferenze, perché altrimenti, io lo dico, questo poi a cascata rischia di avere una ripercussione sulle altre banche italiane, perché se si scopre che anche due banche buone, nel senso che non hanno i problemi che ha il Monte dei Paschi, per essere proprio fuori dai denti, non riescono a fondersi per questi motivi, figurati le altre. È il ragionamento che fa il mercato, ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, domanda che fanno alcuni ascoltatori, ma insomma, se queste due banche sono in realtà, perché devono fondersi? Se sono le due, diciamo, più solide, perché devono fondersi? Dall'altro, saluto anche Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, perché poi parleremo, buonasera Paolo, ciao, buonasera, dell'effetto che ha a cascata su tutti gli altri ragionamenti, che se non riesce a fare neanche questo matrimonio, figurati gli altri. Se risponde a questa domanda Luca Davi, assieme all'ipotesi di candidatura di Andrea Bonomi, ossia se saltasse l'operazione, Bonomi, che oggi a Milano, da quello che abbiamo capito, sta incontrando alcuni dei leader sindacali che sono molto presenti e molto importanti, anche troppo a mio avviso, dentro la Pop di Milano, potrebbe tornare a essere il presidente del Consiglio di Sorveglianza. Quindi perché farla e Bonomi? Perché farla? Perché creerebbe sinergie importanti in uno scenario europeo in cui la competizione tra le banche diventa sempre più rilevante, quindi bisogna raggiungere dei livelli di solidità elevate, quindi creare economie di scala sarebbe decisivo. Ovviamente tutte le banche hanno dei piccoli elementi di fragilità, piccoli e grandi livelli di fragilità, e quindi questa fusione potrebbe permettere anche di diventare più attrattivi agli occhi degli investitori internazionali. Questo è il vero problema. Il passaggio da banche popolari a SPA va in questa direzione. Certo, perché sono più contendibili. Esattamente, aiuta sostanzialmente l'investimento. Bonomi. Il tema di Bonomi è un tema molto legato proprio alla realtà di Banca Popolare di Milano, che è una banca particolarmente, come dire, sempre sensibile. Incasinata nella governance. Molto. C'è un forte dominio dei sindacati, l'anime sindacali, ci sono associazioni interne, insomma è molto complicata, una geografia molto complicata. Qual è il punto? Che qualora questa fusione col banco davvero poi non andasse a buon fine, che cosa succederebbe? Beh, succederebbe che ritornerebbe con un grandissimo colpo di scena, ritornerebbe una vecchia conoscenza di BPM, cioè l'ex presidente, l'ex primo azionista della banca, uscito ormai nel gennaio del 2014, ma rientrerebbe, diciamo, dalla finestra, ma anzi dal portone principale, perché andrebbe a presiedere il consiglio di sorveglianza. Questo probabilmente sarebbe il prodromo per un eventuale investimento forte nella banca da parte di Bonomi. Da parte di Bonomi. E a quel punto c'è chi dice che questo possa poi far di nuovo, come dire, il primo passo per un diverso assetto e una fase di fusioni di diverso tipo. Rispetto. Allora, nel ringraziare Luca Davi, Paolo Paronetto resta con noi, nel senso che questo appunto a cascata si è ripercorso su tutte le altre banche, non male come Banco Popolare, ma insomma non si è salvato molto oggi. Intanto c'è il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. DJ 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sul tema del rischio molto forte che saltino le nozze tra Popolare di Milano e Banco Popolare, quindi tra Milano e Verona. Rischio che la borsa ha totalmente incamerato, con un meno 14% per il Banco Popolare e meno 5,50 per la Pop Milano. I messaggi, devo dire che sia su WhatsApp al 349-238-6666 che allo stesso numero come SMS, sono molto sono di due tipi. C'è chi dice: beh, se saltano queste nozze è un disastro, e accusa la BCE e l'Europa di ostacolare sempre qualunque progetto italiano, e con altri ascoltatori che ragionano: beh, se non accettano questi due matrimonio tra questi due istituti, non potranno accettare nessun'altra fusione in Italia. Quindi il ragionamento che fa il mercato è: beh, se non potranno fondersi le banche italiane popolari, dovranno andare verso un aumento di capitale, che vuol dire dolori in questo periodo. Dall'altro, altri dicono: ma insomma, ma li avete visti i bilanci di queste due banche? Guardate i non performing loans, cioè i crediti inesigibili, le sofferenze e loro rispetto al patrimonio. Non è vero che sono così solide. Allora, Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera di nuovo. Buonasera a te e agli ascoltatori. Dicevamo, insomma, il ragionamento comunque è stato fatto a cascata su tutte le altre. Io posso rispondere non in maniera pilatesca, però insomma, per carità, è vero che c'è un problema, soprattutto se ricordo bene, nel Banco Popolare, di sofferenze. Però se nemmeno queste due, mettiamola così, non saranno dei gioielli delle nozze, però se non riesci a fare nemmeno questa, non riesco a capire come tu possa fare le altre operazioni in cui c'è in ballo anche il Monte dei Paschi di Siena, Paolo. Beh, questo è esattamente il ragionamento che è stato fatto sul mercato. BPM è considerata da tutti gli osservatori, dopo le pulizie fatte negli ultimi anni, una banca molto solida. È vero che il Banco Popolare ha una certa massa di crediti deteriorati, ma diciamo che comunque non ha nulla a che vedere con quello di altri istituti. Quindi quello che dicono molti analisti e osservatori è: se la BCE non dà un via libera a un'operazione di questo tipo, se come sembrano le iscrizioni chiedere un aumento di capitale a questa, figuriamoci cosa, che paletti potrà mettere a eventuali operazioni che coinvolgano banche considerate più fragili. E non ci sono solo quelle che citavo, ci sono anche altre, pensate a Veneto Banca e a Popolare di Vicenza. Ci sono anche appunto popolari non quotate che devono andare verso l'operazione di aggregazione, per cui questo è il vero dubbio. Comunque, Pop Emilia Romagna meno 6,60, altra banca che cerca marito o moglie, comunque cerca un matrimonio. Mediobanca meno 6,11, Unicredit meno 4,20, Monte dei Paschi meno 4,10, Ubibanca anch'essa oggetto di matrimonio meno 3,50%. Poi Intesa San Paolo meno 2,80, e direi con le banche ci fermiamo qua. In calo oggi anche Moncler meno 2,20, come ST Microelectronics, Telecom Italia meno 1,90, Finmeccanica meno 1,60, Exor meno 1,40. Fronte opposto vede invece guadagnare Snam il 2,90%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 1,80, Eni più 1,80, come Tenaris e Saipem più nel 30%. In realtà qui è il prezzo del petrolio sopra i $40 che dà una mano. Esattamente, il petrolio è risalito nel corso della seduta sopra i $40 al barile, il petrolio WTI, al momento entrambi i tipi di contratti, il petrolio WTI adesso è tornato sotto i $40 al barile, mentre il Brent è più o meno esattamente sui $40 al barile. Comunque si tratta di una giornata di rialzi di oltre di quasi 4 punti percentuali, e quindi ne ha beneficiato tutti i titoli del comparto, come ricordavi tu, Snam più 2,9%, ma anche Eni più 1,8% e Saipem più 1,27%. Ancora Snam, appunto, c'è anche l'ipotesi di spin-off, quindi di separazione di Italgas. Sì, esattamente, anche questo sicuramente influito sulle quotazioni, e anche se appunto, come vediamo anche dai sottoindici settoriali di Continentali, si tratta proprio di un movimento del comparto. Infatti il sottoindice energia è stato tra i migliori di giornata, ha guadagnato il 2,45%, e ancora meglio ha fatto quello generale sulle materie prime, che è salito del 6,4%. E poi devo dire altri titoli che oggi bene sono andati e si chiamano Banca Mediolanum più 1,30 come appunto Saipem, Italcementi più 1% come Campari, Eterna e anche Mediaset guadagna l'1%, Enel più 0,90, Atlantia più 0,70%, Ferrari più 0,60%. E su Ferrari oggi c'è stata anche una dichiarazione durante la sua lex magistralis all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Modena in Reggio Emilia da parte dell'amministratore legato del gruppo Fiat Chrysler, ed è appunto Sergio Marchionne, che è anche presidente di Ferrari, parlando a Modena è chiaro che ha parlato di Ferrari, ha detto: nessuno la porterà via da dove è nata. Sarei un ingenuo se non sapessi che la quotazione di Ferrari in borsa non è stata accolta con le fanfare qui a Modena. È una di quelle rivoluzioni epocali alle quali non siamo preparati. È la reazione di fronte a un figlio che diventa grande quando si comincia a pensare che se ne stia andando per la propria strada, in qualche modo ci stia lasciando. Sono venuto qui a dirvi che non è così. Se abbiamo deciso di portare la Ferrari in borsa è per assicurarle un profilo internazionale, renderla più attraente per gli investitori di tutto il mondo. Questa Ferrari è e resterà il punto di riferimento anche per la Ferrari di domani. La vera forza di Ferrari sta proprio nel dove è nata e dove si è creata la leggenda, e nessuno la porterà mai più via da qui. E poi i migliori e peggiori della seduta: Enertronica più 5,90, Worldspace più 11%, Digitouch più 4%, ancora tra chi si è mosso bene l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna più 4,50%, fronte opposto invece appunto il Banco Popolare, che è peggiore, molto male anche il Credito Valtellinese oggi, è meno 7,60%, questo sempre nella logica di delle operazioni che potrebbero saltare se si bloccasse la prima, cioè Banco Popolare e Popolare di Milano. Friendly Energy meno 7, Popolare Emilia Romagna l'abbiamo detto, e poi le altre sono tutte banche, eccezione fatta per Safe Bank meno 5,50, anche la Cassa del Risparmio di Genova chiaramente ne risente, altra banca che deve andare a un'aggregazione e perde il 5,40%. Allora, grazie intanto a Paolo Paronetto, e ringrazio anche per averci raggiunto l'economista Mario Seminerio, che è autore del, tra l'altro ha un blog molto conosciuto, fastidio.net. Buonasera Seminerio. Buonasera. Vuoi darmi un commento anche lei su, poi arriviamo a quando hanno fatto le banche centrali oggi, le altre banche centrali, non la BCE chiaramente, però visto che parlavamo di BCE, insomma è un po' strana questo, non è Draghi, è Neumann e soprattutto il fronte diciamo franco-tedesco dentro la BCE, però insomma vedo ascoltatori molto molto nervosi, e il motivo è anche dire: ma insomma non ci fanno fare questo con queste due banche, figurati il resto, è l'Europa che mette sempre i bastoni tra le ruote all'Italia. Seminerio. Ma sì, sono reazioni che abbiamo imparato a conoscere, nel senso che l'Europa è sicuramente il miglior capro espiatorio a tutti i fallimenti di questo paese, storici ancora in essere. Per quanto riguarda il discorso di Banco Popolare e Popolare di Milano, è chiaro che c'è un livello di sofferenze che non è lieve, dal versante ovviamente di Banco Popolare. Se ricordiamo, durante uno dei primi pellegrinaggi dei due capi delle banche alla vigilanza, davanti alla vigilanza della BCE, quando si stava decidendo, una delle promesse solenni fu: noi aumenteremo gli accantonamenti a rettifica delle sofferenze. E questa è una cosa di cui forse tendiamo a dimenticarci, perché la cronaca ha questo effetto dilavante, poi ci scordiamo tutto. Poi c'è anche l'altro problema. La Popolare di Milano, se si fa un'aggregazione, e la Popolare di Milano vuole 3 anni di autonomia di brand e anche diciamo di una sorta di piccolo recinto di governance tutto suo, il tutto all'interno di un consiglio d'amministrazione di 19 persone. Cioè non mi sembrano esempi di un'aggregazione che genera sinergie, non mi sembrano esempi di un'aggregazione che riduce le strutture oligarchiche delle banche, perché io vorrei che qualcuno mi venisse a spiegare che i 19 consiglieri di amministrazione della banca risultante sono tutti fondamentali ed imprescindibili per l'orientamento strategico della banca aggregata. perché non raccontiamoci palle, giusto per usare un delicato eufemismo. Mm-hmm. Per quanto riguarda il discorso dell'aumento di capitale, evidentemente diciamo, la vigilanza della Banca Centrale Europea avrà le sue motivazioni, l'entità delle sofferenze è elevata, le promesse dei due amministratori delegati sono state fatte, dopodiché si è anche sentito, allora se c'è da fare un aumento di capitale l'operazione salta. Cioè, non mi pare che siamo di fronte ad un rapporto di forza dove le banche italiane possono dettare le condizioni, però magari mi sbaglio io, mi sono perso qualche puntata, ecco. Quindi lei dice, se ho ben capito, attenzione a dare tutte le colpe all'Unione Europea, scusatemi, alla BCE in questo caso, non c'entra niente l'Unione Europea, perché da un lato le banche italiane e anche le due in questo caso sapevano benissimo che con la vigilanza bancaria della BCE si sarebbero dovuti sistemare il rapporto tra accantonamenti, cioè soldi che metti in cascina per reggere le sofferenze e anche le eventuali sofferenze future, cioè se altri crediti dovessero diventare inesigibili andassero in sofferenza. E quindi quella era una promessa che sapevamo. Dall'altro lato, in questa operazione si vogliono mantenere gli status quo precedenti. Sappiamo che Popolare di Milano non è un gran esempio, non ce l'ho con i sindacati, però insomma è un esempio di una governance un po' particolare, e questa operazione in cui si vogliono mantenere così tante poltrone dopo è un'operazione che non è chiaro il perché, se non per chi le poltrone le devo utilizzare per essersi sopra. E qual è il problema dell'aumento di capitale? Resti con noi, Seminario, perché ho il traffico. Focus Economia. Allora, qualcuno dice che la governance del Popolare di Milano è un modello Stalingrado. Non lo so, so che sicuramente i sindacati hanno un peso che non si vede da altre parti, in altre banche, hanno fatto saltare anche operazioni nel passato. Però detto questo, Seminario, lei mi sembra di capire, dice attenzione, ci sono delle responsabilità grosse anche delle nostre banche e non devono sorprendersi. C'è chi parla addirittura di aggiotaggio nella lettera di cui nessuno conosce i contenuti che la BCE ha inviato alle due banche. In effetti un po' di turbativa di mercato c'è stata oggi, però che cos'è questo? È una banca centrale europea che segnala anche qualche elemento di criticità, perché con lei volevo parlare, poi lo faremo un'altra volta, anche di cosa hanno fatto oggi altre banche centrali, mi riferisco alla Norvegia che ha abbassato i tassi di interesse, la Svizzera li ha lasciati allo 0,75%, la Gran Bretagna li ha lasciati fermi allo 0,5%. Ma non c'è però, se mi viene un po' di contraddizioni, una BCE che chiede il consolidamento, cioè banche più solide a partire da quelle italiane, e poi però non riesce a far decollare nemmeno questa operazione? Chiedo. Ma allora, premesso che io non intendo fare il difensore d'ufficio della BCE, chiaramente perché non ce ne sarebbe motivo, comunque qui parliamo del meccanismo di supervisione unico, il single supervisory mechanism, quello guidato dalla francese Daniel Nui, che è una entità che opera dentro la BCE ma è segregata dall'organo che segue la politica monetaria. Ciò premesso, magari sbaglieranno anche loro, magari l'approccio sarà eccessivamente rigido e ragionieristico, però proviamo a fare un ragionamento molto astratto e banale. Abbiamo delle aggregazioni potenziali che sono in corso. Le aggregazioni servono per consolidare, non per sommare delle debolezze. Quindi devono essere sinergiche. Non possiamo limitarci a sommare delle sofferenze. Ora, se il piano industriale dell'entità aggregata Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, non genera una sufficiente spinta di redditività per i prossimi anni, tale da aumentare in maniera sicura e tranquilla gli accantonamenti a perdite su crediti e quindi a ridurre e abbattere le sofferenze nette, è fatale che il meccanismo di supervisione intervenga, alzi la mano e chieda: mi devi fare un aumento di capitale, perché le sinergie che mi hai presentato in questo piano industriale di aggregazione io le reputo insufficienti e insoddisfacenti. Potranno avere torto, potranno avere ragione, ma non possiamo sfuggire dal fatto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che ha una crescita economica molto lieve, molto flebile, che ne dica l'esecutivo, e una crescita economica molto lieve, molto flebile non determina quella spinta che consente alle banche di abbattere in modo significativo lo stock di sofferenze. Quindi credo che tutto si possa e si debba ricondurre alla fragilità strutturale di questo paese. Io continuo. Sì, Semiliano, guardi, io sono d'accordo con lei su quasi tutto, non so se questo abbia le vada a vantaggio o meno, però una cosa vorrei capire. Ok, sappiamo che la crescita è modesta, sappiamo che da questo punto di vista c'è un problema enorme di sofferenze bancarie in questo paese e lei dice, beh, con questa crescita fondere anche Popolare di Milano e Banco Popolare non ti garantisce assolutamente che ci sarà un miglioramento delle sofferenze bancarie, che avrete più soldi per rispondere e gestire le sofferenze bancarie. Però se questo è vero, Seminario, non si fa nessuna fusione in questo paese. Nel senso che qua la Popolare di Milano e il Banco Popolare erano l'apripista per fusioni future. Ora, che cosa può capitare a banche come Cassa di Risparmio di Genova, Monte dei Paschi, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, solo per citare quelle diciamo più conosciute diciamo dal punto di vista giornalistico, se non passa nemmeno questa fusione? Questo che è più in chiave diciamo di scenario che mi interessa in questo caso la risposta. Ma io temo che saranno comunque necessari aumenti di capitale. Credo che da lì non si sfugga e che questo sia effettivamente l'aspetto ineludibile della vicenda. E questo è, diciamo, la pillola estremamente amara che dovranno, diciamo, ingerire gli azionisti delle banche aggregate e fuse, perché non ci sono al momento, da eventuali ipotesi di fusione, la somma di più debolezze non fa una forza. Questa è la realtà. E se continuano ad esserci incidenze delle sofferenze così rilevanti e nuove sofferenze o nuovi crediti incagliati si trasformano in sofferenze e la redditività non riparte, perché la redditività è figlia anche del margine di interesse e con i tassi negativi il margine di interesse soffre in una maniera atroce per tutte le banche, anche per quelle sane, lei si immagini per quelle fragili che devono spingere sulla leva dei ricavi non da interesse. Però non è che possiamo spingere tutte le banche a diventare venditori di elettrodomestici, di strumenti ginnici o di abitazioni, perché ci vuole tempo e un cambio di mentalità. Sì, questo è il ragionamento che preoccupava anche le banche tedesche, cioè quando Draghi, certo, lo dico a tutti gli ascoltatori, abbassa i tassi di interesse, li porta negativi nell'overnight, è chiaro che la banca che guadagna prendendo i soldi a breve a tassi bassi e facendo prestiti nel medio termine a tassi molto più alti, beh, si appiattisce la curva dei tassi, diciamo così, cioè tutto rende pochissimo. Il BTP a 10 anni è al 2,40%, se non ricordo male, per cui anche il margine, quello che può giocarci la banca, si abbassa, e si abbassano quindi i ricavi da interessi sui prestiti, molto banalmente. Lei, mi sembra, per concludere il Seminario, che veda un'unica possibilità. Se vogliamo fare queste fusioni, gli aumenti di capitale, che voglio dire però un bel bagno di sangue sul mercato? Temo di sì, perché ci sarà un effetto dilutivo, non tanto un bagno di sangue da brutte notizie, quanto eventualmente una nuova debolezza. No, un bagno di sangue per gli azionisti. Gli aumenti di capitale per definizione sono dilutivi, certo. Per cui si rischia una nuova fase di debolezza specifica del comparto, ma non voglio fare divinazioni, per carità, ne sto suggerendo. Le avrei dato il gufo oggi, Seminario, però il gufo ce l'ha rubato Renzi come diciamo intercalare, quindi il nostro gufetto è ormai parcheggiato perché non vogliamo inflazionarlo. Grazie, intanto il ragionamento suo era chiarissimo e la ringrazio anche per questo. Grazie all'economista Mario Seminario. Il Brasile lo facciamo domani, abbiate pazienza, tutto oggi non si riusciva a fare, ma lo faremo perché la vicenda di Lula è una vicenda obiettivamente che grida vendetta. È vero che la Corte di Giustizia a cui Lula fa riferimento in quanto il ministro della Casa Civile, al di là delle battute, è un ruolo importante di coordinamento del gabinetto, come ci ricordano alcuni ascoltatori, ma lo affronteremo domani, anche perché si attendono sviluppi, vedremo se il governo brasiliano farà ricorso. Intanto, da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata, ci sentiamo appunto domani dalle 17 in poi, torna, ahimè, anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.